Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questa è Radio 24 e inizia dunque il pomeriggio di Italia in controluce, la seconda edizione. Con il ferimento dell'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare ad Inolfi torna dunque lo spettro degli anni 70. Soltanto ieri nell'aula bunker del Tribunale di Milano durante un processo contro le Brigate Rosse abbiamo visto scene che ci riportavano indietro nel tempo. Non sarebbe terrorismo brigatista quello che ha colpito ad Inolfi, ma anarco-insurrezionalista. Ma oggi come ieri si sceglie Genova per ripartire con il piombo. La nostra storia parte proprio da qui, da Genova e dalla memoria delle vittime, in particolare dalla memoria di Guido Rossa. Signor Presidente, onorevoli deputati, corrispondo alla richiesta di informativa urgente formulata dagli onorevoli Giacchetti, Evangelisti e Cassinelli in merito all'attentato avvenuto l'altro ieri a Genova di cui è stata vittima l'ingegnere Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e vicepresidente della terza commissione dell'Associazione Italiana Nucleare. Ho dato immediatamente la mia disponibilità a fornire al Parlamento ogni elemento informativo su questo episodio che desta molta preoccupazione per la sua gravità. Non è necessario che io ricordi il valore simbolico che in passato l'Ansaldo ha rappresentato nella lotta alla diversione. Voglio innanzitutto, a nome del Governo e mio personale, esprimere sentimenti di vicinanza e di solidarietà all'ingegnere Roberto Adinolfi, nonché la ferma condanna del vile atto di violenza commesso nei suoi confronti. Mi auguro che non si enfatizzi troppo, cerchi di capirmi cosa significa, cioè voglio dire che non si enfatizzi troppo, che non si dia troppo eco, che potrebbe in qualche modo, di cui questo nuovo terrorismo potrebbe anche autoalimentarsi, nel senso che è importante che i media siano presenti, che diano le notizie, le informazioni, però io eviterei quella che a volte a cui assistiamo, che è una forma di spettacolarizzazione, no, della, certo, che non aiuta, insomma. La premessa è d'obbligo e la fa una donna, l'onorevole Sabina Rossa del Partito Democratico. È una parlamentare, ma è anche e soprattutto una donna segnata dal terrorismo. Suo padre era il sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio del 1979. Guido Rossa, presidente del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7 a poche decine di metri dalla propria abitazione in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregi. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Che cosa resta oggi di quelle persone uccise per mano terrorista? Quanto è cresciuto il nostro paese? Quanto è maturata la società civile in questo senso? Sono considerazioni che vengono in mente dopo l'attentato a Roberto Adinolfi dell'Ansaldo di Genova. Che cosa succede tra i lavoratori? Lo abbiamo chiesto a Sabina Rossa. Grande responsabilità da parte dei lavoratori, grande presenza e come dire, e voglia di esserci, di dire no alla violenza e no a un possibile ritorno del terrorismo. Secondo lei quali sono, diciamo, questo potrebbe essere uno dei punti cardine per isolare quelli che si sono armati e stanno cambiando un po', cioè stanno riportando questo senso di paura, no? Questo tema dell'isolamento è un punto di forza, lei l'ha subito illustrato adesso, ma quali sono gli altri passaggi che bisogna mettere in atto adesso per cercare di non ripiombare? Ma ognuno deve fare la sua parte, no? Per quello che rappresenta, per quella che è la propria funzione, quindi diciamo i nuclei specializzati degli inquirenti di investigazione dovranno sicuramente fare un lavoro più approfondito, più accurato di intelligence, più che a mio avviso più che di militarizzazione del territorio, sulla quale io nutro forti dubbi. Dopo Dopodiché si chiamano in causa, sono chiamati tutti, sono chiamate in causa le forze politiche, sono chiamati in causa i sindacati, fino ad arrivare insomma ai rappresentanti delle istituzioni e ai cittadini tutti. Lei crede che l'Italia riuscirà mai a fare i conti fino in fondo con questo tema del terrorismo? Perché poi in qualche modo torna ciclicamente, no? Da noi, insomma. Sì. È quello che oggi, no? Da più parti si dice: il terrorismo può rappresentare nella nostra forma di società un fenomeno di tipo endemico, no? Però è un fenomeno endemico che non si sviluppa autonomamente e trova sempre spazio in quelle che sono le contraddizioni, in quelle che sono i fattori irrisolti della nostra democrazia. Un paese che non è un paese pacificato, dove non abbiamo verità, non abbiamo verità sicuramente e soprattutto sulle stragi, verità parziali sul terrorismo di quegli anni, verità giudiziarie parziali, e poi non c'è mai stata una volontà della società nel suo complesso di fare chiarezza, non c'è stata una volontà neanche a sinistra, se vogliamo, parlando di terrorismo rosso, nell'assumersi delle responsabilità. Vero, sono d'accordo anch'io su questo, bisognava fare proprio un passo definito molto forte. Ci sono state posizioni ambigue, no? Allora le ricordiamo tutto, gran parte del mondo intellettuale in posizioni ambigue sull'uso della violenza politica e sul terrorismo e ancora oggi il dibattito riguarda vittime e colpevoli, no? Di allora, ancora una volta come se si trattasse quasi di una questione privata che non dovesse investire per quelle che sono le conseguenze di quei fatti di sangue l'intera società, non dovesse interrogare l'intera società. Così, mentre servizi segreti, vertici delle forze di polizia, apparati di sicurezza sono al lavoro per mettere a punto un piano tecnico per proteggere chi potrebbe essere colpito, i magistrati indagano sull'episodio genovese e non escludono alcuna pista. Si parte dalla pistola usata, si interrogano i testimoni, come spiega il procuratore aggiunto di Genova, Nicola Piacente. Bisogna dire che a questo punto, per scrupolo, non guarderemo soltanto episodi di natura terroristica avversiva, ma a una serie di altri episodi. Perché, tra l'altro, abbiamo notizia, l'avete tutti, che una pistola di quel tipo è stata rinvenuta anche in Puglia non molto tempo fa, nell'ambito di un sequestro consistente di armi che riguardava anche altro tipo di armamento. Chiaro, la dinamica ci ha riportato agli attentati a Lanzaldo degli anni 70, quindi alla firma Brigate Rosse. 40 i sospettati per il ferimento di Adinolfi, alcuni farebbero parte dell'area insurrezionalista greca. Colpire i manager, ma anche le banche e i ministeri, i commissariati, i professori universitari. Questi gli inviti che gli anarco-informali aderenti al gruppo greco Cospirazione Cellule di Fuoco e dell'Internazionale Nera degli Anarchici di Azione che si trovano in carcere rivolgono al mondo anarchico del Fai Free all'esterno attraverso un sito specifico che cura la traduzione dei testi in 5 lingue. Se si va a guardare poi sul web, in altri siti antagonisti, si trovano frasi che inneggiano tra strafalcioni e bestemmie a una società senza classi sociali, senza doveri, frasi sconnesse dove l'unico collante è una rabbia demente e vuota. Era Italia in Controluce e ricordo che questa, come tutte le puntate di Radio 24 Italia in Controluce, sono scaricabili in podcast su radio24.it. Poi siamo su Facebook, pagine gruppo e su Twitter. Torniamo puntuali domani alle 6.30 su Radio 24 con un reportage di Maria Luisa Pezzali dedicata alla nuova Lega di Roberto Maroni.